fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Torniamo in diretta e lo facciamo esattamente all'1.36 del mattino, questo è sempre sabato 8 dicembre del 2018 e come sempre nel nostro spazio continuiamo a chiacchierare con i festeggiati, con tutti gli ospiti e adesso abbiamo una sposa, una signora sposa, una rossissima sposa, l'ho notato adesso, non me ne ero accorto prima, evidentemente col buio e le luci non me ne ero accorto, no, non il velo, i capelli. No, magari il velo. Ah no, perché mi ha segnato il velo e insomma non sono ancora arrivato al daltonismo, ci no, manca poco, ma ce la facciamo. E allora diamo il benvenuto a Elena, benvenuta. Grazie, ciao. Benvenuta ciao, e alle sue amiche, sì, ovviamente. Benvenute ragazze. Ciao. Ciao, ciao. Abbiamo anche un arbitro di wrestling qui con noi. O una zebra, o vedete voi cosa può essere. Oh, vedi il mio cappotto che mi guarda. Ah sì, è uguale? No, è peggio. È di pelo fucsia. È di pelo fucsia? Ma sei sempre così elegante e come dire, e se è brava. Sobria, e sobria nel vestire. Bello, bello, mi piace questa. Beh, ma diciamo che anche la Elena non è che si distingua per normalità e semplicità nel suo abbigliamento, perché c'ha una gonna d'oro che Dolce Gabbana a confronto gli fanno un baffo. Esatto. Gli fanno un baffo assolutamente. Tra l'altro abbiamo detto Dolce Gabbana, quindi almeno una borsetta Elena dovrebbe arrivare per pubblicità. Prova a dirlo un'altra volta. Dolce Gabbana, gentilmente due. Una borsetta due. O due anche. No, o una di quelle grandi. L'abbiamo detto due volte, quindi due borsette. Ecco, basta che non arrivino dalla Cina, perché ho sentito che ci sono dei problemini con Dolce Gabbana. Sì, dalla Cina va sempre bene. Sì, beh, no, diciamo, non so se arriverà di quel marchio lì, perché hanno avuto un po' di problemini. Di qui non parleremo, ma parleremo intanto da dove vieni, Elena, dici un po'? Da Iseo. E parleremo non di Iseo, anche se sarebbe bello e ci sarebbe tanto da dire, ma parleremo del futuro, ormai prossimo, matrimonio della nostra Elena, vero? Sì, esatto. Quando? 22 dicembre. 22 dicembre, quindi 22-12, chi è il fortunato? Luciano. Luciano. Luciano. Barista. Luciano di cognome? No. Ah, scusa. Di cognome è Uccelli, quindi io sarò la signora Uccelli. Perfetto. Direi che potrai fare tipo con gli altoparlanti in mezzo a Iseo, proprio in mezzo al lago. Buongiorno a tutti dalla signora Uccelli, esatto. Le previsioni del tempo di oggi sono mare calmo. Esatto. Mi piace come idea. Bene, però ne sei orgogliosa, già ti sei preparata psicologicamente, quindi... Sì, diciamo di sì. Diciamo di sì. No, io più che altro sto pensando al prete, l'officiante comunque, insomma... No, per fortuna ci sposiamo civilmente, non in chiesa, comunque, ci sarà comunque un officiante. Sì. Quindi si dovrà... si dovrà preparare, vabbè, insomma... Però se tu sei tranquilla così, basta che non vai poi a fare il bird watching o la cacciatrice di uccelli. Certo la faccio però. Vai nei boschi. Vai nei boschi a sparare. Vai nei boschi a sparare agli uccelli. Uccelli è mio marito e quindi caccio. Ah, caccio. Però è uno, cioè ne cacci uno. Che specie è? Che specie è? A cosa lo assimileresti come specie? Bella è questa domanda. Un bel colibrì, come mai? Perché è il primo nome di uccello che deve... Ah no, però pensavo non ci fosse motivo. Pensavo non ci fosse motivo. È leggero. Leggero di carattere, mi piace. È leggero. E quindi un colibrì, anche se lui è bello massiccio. Un colibrì è grandi, sì, però vabbè. Bello, bello, mi piace, però leggero di carattere, mi piace, mi piace, mi piace. Quindi la signora, futura signora Uccelli, e 22-12, no, dicevi che fa il barista, quindi. Quindi, allora, aspetta, quindi, no, cos'era? Alberto, Angelo, come si chiama? Luciano, scusa, quindi non Luciano barista, ma Luciano Uccelli, sì, il barista. Esatto. Barista Iseo? Sì. Ma è suo locale, sì, o dipendente? Al bar in piazza Garibaldi ad Iseo. Bar in piazza Garibaldi, bello, bello, però, e quindi non è mai a casa praticamente, vive murato là. No dai, ultimamente ha un po' più di tempo. Riesce a trovare, sì, riesce, sì, a trovare posto. Beh, diciamo che vivete una vita a contatto con le persone, perché anche tu mi dicevi che fai il lavoro che per antonomasia ha più contatto col pubblico in assoluto, che è quello dell'alberghiero, insomma, sì, dell'hotel. Sì, esatto. Cosa fai? Raccontaci un po'. Sono vice direttrice in un hotel a Iseo. Come si chiama? Araba Fenice. Araba Fenice. Araba Fenice, è, sì, molto bello. Esatto. Direttamente al filo d'acqua. No, è giusto, noi siamo qui anche per fare promozione. Ho appena controllato su TripAdvisor, di 1000 recensioni 999 sono negative e dicono la vice direttrice è antipatica. Queste sono 999 recensioni così. Perché ha, esatto, perché ha gonne troppo colorate, quindi ci oscura. No, assolutamente, andatela a trovare Araba Fenice, certo. Che è conosciuta per, qual è il vostro, l'unico hotel direttamente sul lago. No, pensavo l'unico hotel di SEO, perché gli altri abbiamo buttati tutti giù. In modo molto democratico. L'unico e hotel sul lago, è favolosa la vista. Ma quindi per vista, per la vista, la prima cosa è la vista, poi ci sono i ragazzi, noi, lo staff è meraviglioso, siamo molto simpatici, molto bravi. Bene, bene. Si mangia molto bene, le camere sono molto belle. Completamente, completamente rinnovate dall'anno scorso, e le classiche da quest'anno. Le classiche? Sì, cioè? Quelle che non hanno la vista sul lago, ma saranno completamente rinnovate così. Ah, perché c'è sia con vista, cioè vista e con senza vista. Esatto. Ah, e si chiamano classiche quelle senza vista? Esatto, sono deluxe, junior. Potete chiamarle con vista senza vista, scusa, che è più facile. Una bellissima pool junior suite con una vasca idromassaggio doppia. Ah, pool junior suite, ah ok, è piscina. Sì, te la... Tutti sti nomi, piscina, pool junior suite. Perché una piscina è una doppia vasca idromassaggio. Ah, ok, ok. Allora diamo quell'idea. Bene, quindi da un piccolo elemento che era la vista siamo passati a 20.000 motivi diversi e buoni. Per andarli a visitare, Araba Fenice, vai, vai, andate, andate, okay. Ma non il 22-12 che sarà chiuso, sì, completamente, no, murato. Ah, già chiuso adesso, bene, perfetto. Però il 22-12, grande festa, certo, per il matrimonio della nostra Elena. Certo. E chi c'è qui con te stasera? Chi? Allora, Luana, presentaci. La mia collega, amica. Non si era capito, suggeriva tutto là dietro. Franca, mia amica, Franci, mia amica collega, Annalisa e Franci, mia amica da una vita. Con Annalisa abbiamo fatto le scuole dalla prima superiore. Hai 900 Francesche praticamente, sì, nel gruppo, esatto. È un casino ricordarsele. Sì, pensavo a scrivere i nomi sui tavoli per il matrimonio. Ho loro due più ancora una, più mia mamma. Mamma e mamma, esatto. Mamma, devo mettere per forza le iniziali perché del cognome, perché è un casino. Ah sì, brava, vedi che comunque pensa tutto, mi piace perché si vede che sta, è sul pezzo, come si dice, è sul pezzo. Allora, vuoi dire qualcosa? Vuoi mandare un messaggio al mondo, al di là di invitare tutti all'Araba Fenice? No, basta Araba Fenice. No, infatti dico, al di là di quello, vuoi dire qualcosa, visto che hai un microfono davanti, vuoi approfittare dell'occasione? Sono nubilato della Elena. Dunque, dove stai leggendo? Cioè, no, non lo sapeva. Sto guardando. No, infatti sto vedendo. Ah, ok, perché sembrava che stesse leggendo degli appunti, no, su se stessa. Infatti stavo cercando di ispirazione. Vai, ispirati. Non mi sono ancora reso conto che sono io la sposa neanche questa sera, non fa niente. Bene. Perché sai, ho fatto sposare praticamente quasi tutte le mie amiche. E tu ti sei tenuta per ultima, giustamente, così detto. Non sono ancora nell'ottica finale. È come praticamente, come dire, guarda, faccio andare a vedere un film a tutte prima. Se tutte dicono che mi è piaciuto, lo vado a vedere anch'io. Ecco, ha fatto la stessa cosa, ha fatto sposare tutte, così tutte hanno dato pareri positivi e così ti sei convinta. No, devo solo trovare Luciano, era quello il problema. Ah, ok. Mancava la materia prima. Sì, mancava. E basta, però sono molto contenta perché la mia amica mi ha fatto una sorpresa. Io sono arrivata vestita così perché pensavo di andare a casa a vedere il Grinch. Esatto, doveva vedere il Grinch. Quindi pensate l'entusiasmo e la trasgressione di questo sabato 8 dicembre, che è rosso sul calendario, quindi esatto, si potrebbe fare qualsiasi cosa. E il suo programma era vedere il Grinch, esatto, su Italia 1. Tanto mi ha detto Italia 1 che potrebbe invitarci come pubblico a vedere. Esatto, direttamente dagli studi Italia 1 con due borse di Dolce Gabbana, visto che stiamo nominando marchi a rotta di collo proprio per cercare di guadagnare qualcosa, perché se poi rivendi le borse di Dolce Gabbana su internet ti puoi pagare metà o anche tutto il matrimonio. Quindi sì. Bella idea. Vedi? Io pensavo di tenerla a usarle proprio, Beh, vedi tu, insomma. Beh, una, ne tieni una, l'altra rivendi. Sì, e fai budget. Bravo, hai fatto bene. Hai visto? Buona idea. Magari mi pago il matrimonio. Bella idea, bravo. Pensavo mi sposo Dolce Gabbana, aveva già cambiato idea. No, sono gay tutti e due. Lo so. Beh, magari ti vedono e cambiano idea. No, non credo proprio a me, però. No, niente. Allora, ragazzi, voi volete fare un saluto? Volete dire qualcosa? Certo. Certo, non devi decidere tu. Non è obbligatorio, ma... La testimone, dai. La testimone, Ah, vergogna, niente. No, no, no, è una domanda liberissima. Niente, dai. Allora, facciamo tanti auguri ancora alla Elena. Lanci. No, no, ma nessun problema, è solo una domanda di rito non obbligatoria. Va bene, va benissimo così. Noi allora ne approfittiamo ancora per fare auguri alla Elena e ringraziare le amiche che sono state con lei questa sera. E in bocca al lupo per tutto. Grazie mille ragazze, buon divertimento. Ciao.